Tour, the moving station. Present Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh. Voi state ascoltando Tam Tam Europe, quella di Rock e altro che vanno in onda tre volte al giorno. Andiamo in Germania, di preciso a Göttingen, dove troviamo i Guana Apes, che hanno appena pubblicato una cover di Big in Japan, una hit degli Alphaville, anche loro tedeschi, dagli anni 80. I Guana Apes hanno suonato a marzo ad Echo Awards, tipo Grammys tedesco, e l'etichetta discografica l'ha definito not a simple cover version, but dare we say a rather free interpretation of the song. Attualmente i Guana Apes si trovano in studio per completare le registrazioni del loro nuovo album, ma tra poco partiranno per un tour in America come spalle ai Creed. Suoneranno quindi davanti a 10.000 persone ogni sera, una grande opportunità per loro. E vi ricordo il mio indirizzo email per segnalare gruppi e brani da ascoltare, fergal@radiotour.it. Sul Tam Tam Europe il nuovo singolo di Guana Apes, Big in Japan. Alla prossima! Tam Tam Europe. Present Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh. Voi state ascoltando Tam Tam Europe, pill di rock e altro che vanno in onda tre volte al giorno. E dopo poco che abbiamo visto in Man on the Moon, Jim Carrey, ma già è pronto con un nuovo film, Me, Myself and Irene, che dovrebbe uscire a giugno, mentre già si sa che chi farà parte del soundtrack. A parte gli XTC, i Bensfold 5 e Urge Overkill, ci saranno anche gli Smash Mouth e Steely Dan. Gli Smash Mouth hanno registrato una cover di Do It Again, il vecchio successo di Steely Dan, e dichiarano di essere felicissimi dei risultati e che questo gli farà decisamente cambiare stile. Il cantante Stephen Harwell dice: "It's really going to be the next sound for us. It's the most amazing cover." Noi su Tam Tam Europe vi facciamo ascoltare il nuovo di Steely Dan, dall'ultimo album Two Against the World, il primo in 20 anni. Se ci volete segnalare gruppi da ascoltare, chiamateci al 081 790 1411 o inviate un messaggio allo 0348 24 38 888. Vi lasciamo con i Steely Dan e Cousin Dupree. Da Fergal Kavanagh, ciao, alla prossima. Tam Tam Europe. My life into a living hell. 'cause you teach me how to do that dance. Life is short and quid pro quo. And what's so strange about a down home family Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh and you're listening to Tam Tam Europe, quella del rock messo in onda tre volte al giorno on Radio Tour the Moving Station. Essendo a Napoli, ho chiesto agli Scancananzi quale fosse la loro città italiana preferita. Ace ci risponde che purtroppo non conosce bene Napoli, ma siccome ha amici a Milano, ci si trova benissimo. Roma comunque la riconosce come la più bella architettonicamente. Poi Cass ci dichiara la sua passione per l'Italia. Well, I don't know Napoli very well, you see, because I didn't explore today. So my favourite city to hang in is Milan, because that's where I have the most friends. But I love Rome for the architecture. It's the most beautiful city for me. I find it hard to put... You know, I love Firenze. I think Firenze is really beautiful, but I love all of Italy. You know, I'll be hard-pressed. I even love the motorways. A Cass, il bassista di Scancananzi, piace molto Firenze, ma ama tutta l'Italia, perfino le autostrade. That's it for the moment from Fergal Kavanagh and Tam Tam Europe on Radio Tour of the Moving Station. Vi lascio con i Scancananzi e week. Alla prossima. Tam Tam Europe. We'll be right back. Station. Present Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh. Voi state ascoltando Tam Tam Europe, pelle di rock e altro che vanno in onda tre volte al giorno. E abbiamo già parlato qui dell'appearance dei REM su Sesame Street, il programma americano dei Muppets per bambini. Anche i Goo Goo Dolls hanno fatto il special guest, cantando una versione del loro hit Slide, rinominato Pride, con il mostro Elmo a voce e chitarra. La canzone racconta delle azioni di cui i bambini possono essere fieri. You helped your mother bake a pie, you fell and didn't cry. And when you've done the best you could, you feel really, really good. You're feeling that pride. E allora, se ci volete segnalare gruppi da ascoltare su Tam Tam Europe, chiamateci allo 081 790 1411 o inviate un messaggio allo 0348 24 38 888. Vi lasciamo non con Pride dai Goo Goo Dolls e Elmo, ma con Slide da Fergal Kavanagh. Ciao, alla prossima. Tam Tam Europe. Al vostro RDS, Radio Touring Tour, in questo momento dalla nostra redazione di Londra ci mettiamo in movimento per regalarvi questi appuntamenti, queste pillole tre volte al giorno dal lunedì al venerdì con Fergal, due nel pomeriggio e due nella sera in RT Presento Sally, cioè a persone di Radio Tour. E allora la nostra redazione di Londra vi saluta, la salutiamo, la ringraziamo chiaramente anche noi, tornerà lunedì pomeriggio intorno alle 17.10, ci prendiamo una piccolissima pausa, subito dopo torniamo con Artful Dodger e Romina Johnson. SPOT Spot. Present Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh. Benvenuti a Tam Tam Europe. Queste pillole che vanno in onda tre volte al giorno sono preparate dalla nostra redazione di Londra nel cuore dell'Europa. E ci sono molte notizie che riguardano Richard Ashcroft, l'ex cantante dei Verve. È uscito il suo primo solo single, A Song for the Lovers, e la copertina la raffigura mentre bacia la sua moglie Kate, che è ormai veramente la sua altra metà. Lei è diventata il suo manager poco fa e da marzo è diventato madre di suo figlio di nome Sunny. La coppia è naturalmente felicissima e per ancora adesso si concentrano a passare il tempo da soli, ma sicuramente lo sentiremo spesso col nuovo singolo. Per adesso è tutto, ringrazio le redazioni di Londra, di Radio Tour The Moving Station, e vi invito a visitare il nostro website www.radiotour.it. Da Tam Tam Europe e da Fergal Kavanagh vi lascio con la bella rock di Hem, dedicato a Richard Ashcroft e la sua famiglia. Raggiungimi, join me, alla prossima! Tam Tam Europe. Molto caruccio, sono di Tour The Movie Station. Io vi ricordo che state seguendo me, Jackie, c'è Gino Nuzzo in regia. Ci sono tanti messaggi che stanno arrivando allo 0348 24 38 888 questo pomeriggio, ma non solo. Saluto anche chi sta su internet, per cui ci saluta con le sue email. Qualcuno si impegna veramente tanto, come Stefano, che ci ha scritto una gran bella poesia. C'è roba da ad altri tempi, c'è un romanticone, Stefano, l'eccezione che conferma la regola. Piccola pausa, tra poco. SPOT. Spot. Present Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh. Voi state ascoltando Tam Tam Europe, pelle di rock e oltre che vanno in onda tre volte al giorno. E andiamo in Germania, da dove ci arriva la notizia simpatica di un'iniziativa di una compagnia ferroviaria tedesca. Offrono sconti alle coppie innamorate. Se scelgono il loro treno per viaggi romantici, hanno diritto a forti riduzioni sul prezzo. Per dimostrare che sono veramente innamorati e non semplici colleghi, si devono baciare davanti allo sportello della biglietteria. Allora, la prossima volta che vi trovate a fare un viaggio in treno col vostro partner, partendo da Piazza Garibaldi a Napoli, perché non provate? E fatemi sapere com'è andato al mio indirizzo email, fergal@radiotour.it. E per questa idea un po' esotica, su Tam Tam Europe vi facciamo sentire i Govinda e Exotica. From Fergal Kavanagh on our news desk in London, ciao, alla prossima! Tam Tam Europe. molto particolare. Grazie a Fergal Kavanagh, la redazione londinese di Radio Tour The Moving Station, sempre più una radio in movimento, ma che lo diciamo a fare, dai, sempre attenti alle nuove mode, alle tendenze nel campo musicale, nella moda, il costume, quello che fa insomma tendenza, in questo caso dalla capitale più bella d'Europa e più trendy, cioè Londra. Prossimo appuntamento con Tamtam Europe ritorna domani, noi ci prendiamo una piccolissima alle 22.10 questa sera e poi domani ritorna Tamtam Europe. Piccola pausa per noi. SPOT. Spot. Radio Tour, the moving station. Present Tamtam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh. Voi state ascoltando Tamtam Europe, pillole di rock e altro che vanno in onda tre volte al giorno on Radio Tour, the moving station. Una notizia che arriva dalla Germania. Il gruppo americano The Fugees ha comprato un radio tedesco per salvarlo dal fallimento. Approfitteranno di questo acquisto per lanciare nuovi artisti, dichiarando di non avere scopi personali e che non ci saranno sicuramente conflitti di interesse. Infatti la radio di Frank Otto è stata una delle prime stazioni radio a passare il singolo dei Fugees al momento del loro debutto. In questa notizia ci si segnala anche movimenti a casa dei Fugees. Chissà se possiamo aspettare nuova musica dopo il successo avuto dai componenti come solisti. Segnaliamo in particolare The Miseducation of Lauryn Hill e a lei dedichiamo un bel pezzo su Tamtam Europe. E vi ricordo il mio indirizzo email per segnalarci i brani e il gruppo da ascoltare, fergal@radiotour.it. From Fergal Kavanagh and our news desk in London, for Lauryn Hill, this is Lenny Kravitz and American Woman. Alla prossima! Tamtam Europe. Tamtam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh e benvenuti a Tamtam Europe. In questo pillole che vanno in onda tre volte al giorno, raccogliamo le notizie preparate della nostra redazione di Londra e ve le proponiamo con rock e non solo. Alle Tate Gallery di Liverpool sono esposti in una mostra d'arte organizzata da Peter Blake, due collage fatti da Robbie Williams, che si è ispirato allo stesso Blake. Peter Blake, ricordiamo, è il celebre pop artist britannico, noto per aver disegnato il leggendario copertino dell'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dai Beatles. Infatti si parla molto di questa mostra perché sono coinvolti proprio John Lennon e Paul McCartney. Sono in esposizione alcune opere inedite dai due celebri cantanti, quelle di Lennon dalle primi anni 60, quando era ancora studente d'arte, e quelle di McCartney composto apposta per la mostra. Le stampe battono molto sul fatto che i due sono insieme, uno accanto all'altro, come tanto anni fa ai tempi d'oro dai Beatles. Allora qua su Tamtam Europe abbiamo notato che nonostante i 30 anni passati e la morte di John Lennon, si sente parlare dei Beatles un po' troppo spesso. Si vendono nuove compilation, album remix, libro dopo libro. Perciò abbiamo scelto di farvi sentire Madre Blu con Non Mi Basta. That's all for the moment from Tamtam Europe. Ricordiamo our website at www.radiotour.it. Vi lascio con i Madre Blu e Non Mi Basta. Alla prossima! Tamtam Europe. Decidi adesso sulla porta se rimanere viva o morta. Ci sono scene da rifare e ricordo benissimo dei Madre Blu di quest'estate. Siamo andati a mare insieme durante alcuni concerti fatti dalla città di Palermo, un divertimento assicurato, quindi bello spirito, bella gente, al di là del fatto che fanno anche bella musica. Abbiamo ascoltati grazie al suggerimento di Fergal e la nostra redazione di Londra alle 17:16 minuti su Radio Tour The Moving Station. SPOT Spot Tour, the moving station. Present Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello again, this is Fergal Kavanagh with Tam Tam Europe, la vostra pillola di rock e altro preparato dalla nostra redazione a Londra. Allora, i Beastie Boys ultimamente hanno pubblicato una raccolta delle loro carriere finora e quanto sono cambiato in 12 anni. Nell'87 c'era richiesto di non farli entrare in Gran Bretagna per i loro comportamenti, diciamo, poco piacevole. Adesso sono cresciuti e vorrebbero dimenticare il loro passato, ma Adam Horowitz, o Ad Rock, non è riuscito a scordare il fatto di aver detto "odio i gay". Ora il senso di colpo lo ha spinto a scrivere una lettera ad una rivista inglese che diceva così: "Chiedo scusa a tutta la comunità gay e lesbica per tutte le puttanate che ho detto. Il tempo ci ha guariti da tante stupidità. Abbiamo imparato molte cose e siamo sinceramente cambiati. Speriamo che accetterate queste scuse e vi dovevamo da molto tempo. E speriamo. Questo è tutto per ora. Se mi volete mandare un'email, segnate questo indirizzo: fergal@radiotour.it. Da Tam Tam Europe, nostra redazione di Londra, e da Fergal Kavanagh vi lasciamo con i fun loving criminals con un pezzo adatto ad Ad Rock, tradotto "non lo potevo fare bene". Couldn't get it right. Alla prossima. Tam Tam Europe. Time is drifting, this rock has got to roll. So I hit the road and made my getaway. Restless feeling, I really got a hold. I started searching for a way. And I kept on looking for a sign in the middle of the night. But I couldn't see the light. Criminals alle 17:17 minuti. Ai ai ai, ma porta sfiga sempre. Cioè, mi ingrippo proprio sul 17:17. Chissà perché lo becco sempre ad ogni sganzo. Facciamo una piccolissima pausa e ci ritroviamo tra poco. Sarà tempo di baci in tour. SPOT Spot Radio Tour, the moving station. Station. Present Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Hello everybody, this is Fergal Kavanagh. Voi state ascoltando Tam Tam Europe, Paul the Rock e altro che vanno in onda tre volte al giorno. Abbiamo già parlato qua dell'uso di un brano di Fatboy Slim per la campagna elettorale di Al Gore negli Stati Uniti, ma anche più vicino a casa il nome di Fatboy Slim è associato con la politica. Infatti ci si è appoggiato su Ken Livingstone per le elezioni del sindaco di Londra e parteciperà ad un grande concerto con The Chemical Brothers per raccogliere fondi per la campagna elettorale. E ci sono anche voci che dicono che ci potrebbe essere anche i Blair. Il gruppo è da sempre fra i supporter di Livingstone e hanno già dichiarato il loro appoggio. Ricordiamo nell'album Great Escape c'è un brano Earnal Same che contiene un monologo recitato con la voce dello stesso Ken Livingstone. Se ci volete segnalare gruppi da ascoltare, chiamateci allo 081 790 1411 o inviate un messaggio allo 0348 24 38 888. Vi lasciamo con i Blair e Coffee and TV. Da Fergal Kavanagh, ciao, alla prossima. Tam Tam Europe. Grazie a Tata Europa, a Fergala e alla nostra redazione di Londra che si mette in movimento tre volte al giorno tra il lunedì e il venerdì e ci racconta quello che accade nell'Europa. Suoni e tuoni dalla redazione di Londra, i prossimi li sentiremo domani pomeriggio all'interno di Bashing Tour con Jackie su questa radio, Radio Tour The Moving Station. SPOT.